partita l'andatura abbastanza sostenuta per evitare di farsi sorpassare, perché solitamente le due macchine andavano abbastanza veloci. E passò davanti al Baro Olivetti e frenò bruscamente all'altezza dello stop. A quel punto il 130 tamponò questo 128, l'Alfetta di scorta tamponò il 130, il 128 bianco con a bordo le altre due persone si pose dietro per chiudere l'accesso all'altra macchina, la persona che doveva occupare l'incrocio occupò l'incrocio e noi quattro che eravamo dietro le siepi del Baro Olivetti uscimmo per sparare sulla scorta. Il brigatista Valerio Morucci ricostruisce così, davanti ai giudici del processo Moro, quello che avviene il 16 marzo del 1978 in via Fani a Roma, il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione dei cinque uomini della scorta. Morucci descrive in modo minuzioso la disposizione del comando e il ruolo dei due brigatisti sulla Fiat 128 bianca, quella con funzioni di copertura che chiude come una sorta di cancelletto il convoglio di Moro. I due brigatisti sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimiri, il primo arrestato 2 anni fa in Corsica, il secondo latitante da quel giorno. Managua, poco più di 1 milione di abitanti, è il centro pulsante del Nicaragua, il paese dei due mari, Caribe e Pacifico, schiacciato tra l'Honduras e il Costa Rica. Sulle rive del lago Managua vive da molti anni Alessio Casimiri, nome di battaglia Camillo. Già nel 1976, l'anno della costituzione della colonna romana delle Brigate Rosse, Casimiri fa parte della rete di simpatizzanti dell'organizzazione, così come l'ha spiegata ai giudici del processo Moro, Valerio Morucci. A Roma erano presenti 3 militanti regolari delle Brigate Rosse, dei quali posso anche fare i nomi perché si sono assunti e si sono rivendicati più volte la loro militanza nelle Brigate Rosse. Questi militanti erano Moretti, Bonisoli e la Maria Carla Brioschi. Oltre a questi 3 militanti esisteva un quadro estremamente vago, tutt'altro che organizzato così come avevo creduto, di contatti, di rapporti, di simpatizzanti, di persone che bene o male condividevano l'ideologia della lotta armata. Alessio Casimiri ha combattuto in Italia le leggi, ma giunto in Nicaragua ha ottenuto protezioni. Oggi è dotato di un passaporto legale, vive libero, impunito, in un paese senza trattato di estradizione con l'Italia, la cui Costituzione vieta di consegnare i propri cittadini ad autorità straniere. In carcere non c'è mai entrato, nonostante gli ergastoli. In Nicaragua Casimiri vive in una bella casa in affitto sulla Carretera do Sur. Tiene in giardino 3 cerbiatti, i suoi 2 figli studiano in una costosa scuola tedesca. Ma chi è Alessio Casimiri? Anni 70. Alessio Casimiri è un giovane militante nel servizio d'ordine del collettivo Via dei Volsci, gruppo di autonomia operaia di Roma. Gestisce un'armeria. Entra come irregolare nella colonna romana delle Brigate Rosse. Il 16 marzo 1978 in Via Fani partecipa al sequestro di Aldo Moro e all'uccisione dei 5 uomini della scorta. Con Alvaro Lo Iacono, Alessio Casimiri è a bordo della Fiat 128 bianca, che si pone dietro la vettura della scorta di Moro e impedisce ogni via di fuga. Il suo ruolo è di copertura e di logistica. Raccoglie poi le armi utilizzate per la strage. Da quel momento Casimiri è un latitante, ma nessuno formalmente lo cerca. Fa parte dei gruppi che uccidono il magistrato di Cassazione in servizio al Ministero di Grazia e Giustizia, Riccardo Palma, Roma, 14 febbraio 1978. Il direttore dell'ufficio prevenzione pena, Girolamo Tartaglione, Roma, 10 ottobre 1978. Il colonnello dei carabinieri, Antonio Varisco, Roma, 13 luglio 1979. Gli stessi gruppi assaltano la sede della DC di Piazza Nicosia, colpendo a morte gli agenti Antonio Mea e Pietro Ollano, Roma, 3 maggio 1979. Alessio Casimiri fugge dall'Italia e si rifugia in Francia, dove viene arrestato dalla polizia locale. Grazie all'intervento dei servizi segreti italiani, Casimiri espatria con un falso passaporto intestato a Guido di Giambattista. E allora giunge in Nicaragua. E a Managua sono molteplici le sue attività. Istruttore di sub, Casimiri apre anche un ristorante tipico italiano, il Magica Roma. Casimiri ottiene la cittadinanza del Nicaragua nel 1988. Battuti i sandinisti alle elezioni, la posizione di Casimiri diventa più difficile. E nel 93, su pressione delle autorità italiane, Managua gli revoca la cittadinanza. Sono gli attimi in cui scatta la missione coperta degli agenti del SISDE Mario Fabri e Carlo Parolisi. Dal 1998 Casimiri apre un altro ristorante, la Grotta del Sub, in cui serve il pesce che cattura nelle acque del Pacifico. Le sue fotografie e documentari sui fondali oceanici sono apprezzati dal quotidiano El Nuevo Diario e dalla televisione nicaragüense Canal 4. I suoi scatti, le sue produzioni video vincono premi internazionali. Casimiri è regista del film Nicaragua sommerso. Ma attenzione, non c'è solo Alessio Casimiri. Dal Nicaragua c'è passata per diversi anni la sua ex moglie, Rita Algranati, nome di battaglia Marzia. Oggi risiede in Angola, vive lontana dai riflettori, ma in Via Fani il 16 marzo del 78 c'era davvero. A Managua ha vissuto molti anni prima di riparare in Angola, dove oggi risiede. Anche Rita Algranati è una militante delle Brigate Rosse. Nell'organizzazione entra dopo l'esperienza nei collettivi dell'autonomia operaia di Roma. Fa parte della sezione romana del cosiddetto Fronte della Controinformazione, insieme ad Alessio Casimirri, Adriana Saranda, Prospero Gallinari, Alvaro Loiacono. In Via Fani la Algranati ricopre un ruolo logistico. Lo sostiene il brigatista Valerio Morucci in un'intervista settimanale Panorama del 1993. Lo conferma Mario Moretti nel libro Brigate Rosse di Carla Mosca e Rossana Rossanda. Prima della strage segue l'indagine sugli spostamenti di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978 Rita Algranati è ferma all'angolo della strada con un mazzo di fiori in mano. Con un cenno convenzionale segnala a Mario Moretti l'arrivo del convoglio di Moro. Anche lei, come Casimirri, partecipa agli omicidi di Riccardo Palma, Girolamo Tartaglione, Antonio Varisco e all'assalto alla sede della DC di Piazza Nicosia a Roma. Alessio Casimiri, Rita Algranati. Chi copre oggi nel 2003 la loro latitanza? Gianni Cipriani, giornalista e scrittore. Il problema dell'estradizione di Casimiri è un problema delicato, nel senso che inizialmente non c'era un accordo preciso tra Italia e Nicaragua e quindi c'era anche una situazione in cui Casimiri poteva rimanere tranquillamente all'estero senza correre troppi rischi. Con la fine del regime dei sandinisti la vicenda Casimiri è ritornata in primo piano e anche in Nicaragua ci sono state delle campagne di stampa contro di lui e c'è stato il rischio che venisse in qualche modo restituito alla giustizia italiana che lo reclamava. Da questa situazione è nata una vicenda abbastanza curiosa, o se vogliamo tipica nel mondo dell'intelligence, perché ci fu una missione di due funzionari del SISDE che andò da Casimirri per cercare in via informale di ottenere alcune informazioni. Siamo in una fase investigativa nella quale ancora si cercava di identificare il quarto uomo, che poi era Germano Maccari. Casimirri raccontò una serie di vicende, fece il nome di un possibile quarto uomo, ma che poi non era la persona adatta, e fece il nome di Raimondo Etro, una persona che era rimasta fuori dalle indagini, come di un fiancheggiatore del caso Moro. quella sorta di confessione, quella sorta di accordo sottobanco che poi divenne pubblico successivamente, probabilmente hanno costituito una sorta di cambiale in base alla quale poi non si è insistito più di tanto sulla estradizione di Casimirri. Successivamente è ritornata alla luce la sua vicenda, c'è stata un'altra campagna di stampa in Nicaragua e lui fece una intervista ad un giornale locale abbastanza sibillina, nella quale si denunciavano complotti ai suoi danni, e c'era una frase piuttosto curiosa che diceva più o meno, non la ricordo letteralmente, ma il senso era quello: se io dovessi essere estradato, allora racconterò pubblicamente di tutte le complicità di cui ho goduto. E questa frase di Casimirri, ovviamente ancora senza risposta, lui non è più stato estradato, la vicenda è rimasta finita nel dimenticatoio, e Casimirri rimane un latitante, un terrorista, una persona che non ha mai pagato per i crimini che ha commesso.